Uno, vabbè, e puoi stare. Nessuno, meglio ancora, così non c'è contagio, ma 100.000 no. E no, no, 100.000 no, quello è assembramento, 100.000 non lo posso accettare. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Ho eletto questa forse presigla più bella del mondo. Credo che la terremo a lungo. 100 Milan effettivamente è un po' assembramento. Infatti oggi Leonardo Manera l'abbiamo tenuto a casa, per esempio. Miriam Lucchetti è lì, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, il nostro Alpino in regia. Ci siamo tutti quanti perché alle 9.09 può iniziare una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan con tutti voi al 349-238-6666, il messaggio è il numero per i vostri messaggi, WhatsApp, audio. Alino, votamente nel WhatsApp, non lo posso creare. Ce l'abbiamo, l'ho appena detto, 349-238-6666, 800-24-0024 invece per chiamarci. Parliamo di tanti temi, a cominciare da Colleferro. Vai. I will not be easy, and it will not be easy. Lo so che tutti gli istinti sono sfogati su Colleferro. Abbiamo tra qualche minuto con noi l'avvocato dei due fratelli accusati di avere ucciso Willy e che negano, non siamo stati noi. Io voglio introdurlo, l'ospite, con Mattia Feltri. Mattia Feltri, sapete, è un po' il mio amore nascosto, insomma, ho dichiarato varie volte di volermi sposare con lui. Scherzo, ma saluto Mattia Feltri. Oggi il suo buongiorno sulla stampa è una risposta perfetta a tutti coloro che hanno scatenato delle anche istintive reazioni, forse anche capibili umanamente. Ma, scrive Feltri, penso che la regola, e cioè penso che un assassino è tale solo dopo sentenza, altrimenti i processi non servono. Andiamo a prenderli quegli assassini e finiamoli in piazza. Penso che la regola valga tanto più se uno appare colpevole, perché se si cede all'eccezione, cede la giustizia. Penso che trovare la conferma a certezze già vaporosamente ferree nelle foto, nelle pettinature, nei bicipiti, nei tatuaggi, nell'attività sportiva, sia l'allegro e spaventoso sprofondare nel conforto efferato del pregiudizio. Penso che questa ormai classica, digitale, collettiva e spietata caccia alle bestie, come sono stati definiti i quattro indagati, è un linciaggio con tutti i comfort tecnologici, è brutalità sterilizzata, non richiede nemmeno un tumulto del cuore. Penso che invocare le punizioni più esemplari corrisponde a infiammare la giustizia di emotività, e quando la giustizia è emotiva è ingiusta, è vendetta. Certo, con queste parole saluto l'avvocato Massimiliano Pica, avvocato dei Buongiorno. Due fratelli Marco e Gabriele Bianchi, due tra gli accusati. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Accusati di cosa esattamente in questo momento? Ci può in dire? In questo momento l'accusa? Sono accusati di concorso in omicidio preintenzionale. Perfetto. Senza quindi aggravanti razziali. Mm-hmm. Senza nulla. Quindi anche l'omicidio volontario al momento non è contestato? Non è contestato, no. Si può perché ovviamente oggi cambiare, no? Può cambiare la certo, l'accusa. Certo, può cambiare perché oggi verrà effettuata in giornata l'autopsia sul paro ragazzo deceduto, quindi che appurerà effettivamente, diciamo, il per quel colpo che è stato sferrato che ha causato la morte del paro ragazzo. Ecco, avvocato Pica, lei l'ha già detto in varie salse, i suoi assistiti, cioè i due fratelli, negano di essere stati loro ad aver dato il colpo fatale o i erano colpi presenti fatali. Erano sul posto, quello lo diciamo. Ecco, non era una spedizione punitiva come tanti giornali hanno detto, assolutamente no, non conoscevano il ragazzo deceduto. Assolutamente no. Però mi faccia chiedere, avvocato, ma che ci facevano lì? Cioè, voglio dire, erano stati chiamati, come ho detto ieri, da due amici che poi ho indicato come testimoni che verranno sentiti in procura, che che dovevano essere, li avevano lasciati lì a Due di Picche e loro li hanno chiamati per andare a riprendere. Il locale, Due di Picche è il locale. Sì, a Colleferro. Quando poi sono arrivati nella fretta, non erano né 5 né 6 persone come hanno detto, erano semplicemente 3 persone. I due fratelli bianchi si sono avvicinati, avranno sbracciato, avranno dato qualche colpo, questo non so. A quel punto poi è finito tutto, perché i due ragazzi hanno detto fermi, fermi, non sta succedendo nulla. Scusi, ma le posso chiedere, sì. Loro dicono non sia stati noi, ma dicono anche, perché insomma, guardi, Willy è morto, sì, cioè sì, c'è un ragazzo che è morto, quindi qualcuno l'ha colpito mortalmente, su questo non c'è dubbio. Hanno anche detto, secondo noi abbiamo visto, è stato lui, indicando una terza persona? Loro non hanno fatto nomi, i testimoni che verranno sentiti diranno la loro versione, quello che hanno visto veramente, però io ho sollecitato la procura per sentirli perché non erano stati ancora sentiti. Oggi lei avrà visto già tutti i giornali, giusto sì, per sì. dire, sì, Belleggia, ecco, Belleggia, che è uno dei presenti insieme ai fratelli, sì, accusato, secondo alcuni indagato, alcuni dicono è stato lui, Belleggia dice è stato uno dei fratelli. Sì, dice chiaramente che è stato, secondo lui, da quello che hanno riportato i giornali, è stato Gabriele Bianchi, ma Gabriele Bianchi non ha solamente detto nulla, ha semplicemente detto che lui non ha visto chi ha colpito. Lei, lei chiaramente è il difensore di due fratelli, ponendosi per un attimo fuori della vicenda, insomma, sì. Quello che dice la comunità, quello che pensa la famiglia, non trova questo scaricabarile, perché un po' lo è, cioè non sono stato io, non sono stato io, è stato lui, un po' insopportabile vedendolo da fuori. Certo, questo qui, perché io infatti i ragazzi non hanno solamente accusato nessuno. Io ho semplicemente detto ci sono dei testimoni che andranno a chiarire esattamente quella sera cosa è successo, perché ho letto anche gli atti del fascicolo, le testimonianze di altre persone presenti, ma non sono molto chiare, quindi io infatti ho detto dobbiamo fare chiarezza, assolutamente. Non sono molto chiare perché c'era un'illuminazione scarsa. No, non c'era proprio, guardi, non c'era l'illuminazione. Purtroppo dopo che è successo il fatto. Non c'era illuminazione, quindi non si vedeva nulla. Io questo che infatti ho detto, dobbiamo fare chiarezza. Lei è l'avvocato da adesso o conosce già i... Perché... Noi le conosco da purtroppo, quando erano ragazze. Le è sfuggito purtroppo. Purtroppo lo cancelliamo. No, non si è messo agli atti, non è un processo, avvocato, stia tranquillo. No, perché i profili di questi ragazzi, per esempio oggi c'è la testimonianza di un vigile che dice che non da loro ma da Belleggia, Piccarelli è stato una volta aggredito e spintonato perché Piccarelli non voleva mettere la mascherina, cioè si racconta. Tutti dicono, io sono di Milano, quindi non lo so, ma i resoconti del paese è sapevamo tutti che tipi erano. Quando si dice una frase così... Ma non sono neanche di Colleferro questi ragazzi, sono di un paese vicino. No, certo, ma tutti sapevano che tipi erano anche riferiti ai fratelli. C'è oggi la testimonianza sul Messaggero di un loro ex allenatore che dice l'abbiamo mandati via dalla palestra perché non rispettavano le regole, come questo, dire... Io non lo so, sinceramente, no? L'ho vista anch'io l'intervista dell'allenatore, ma no... Cioè dicono erano violenti, questo è per farlo come sunto, no? Che loro hanno avuto dei precedenti ancora in corso in cui sono stati coinvolti con altri ragazzi per vista, questo non lo escludo, insomma sì, non le posso dire di no perché direi una bugia. Non sono andate ancora a giudizio, ma c'è stata qualche episodio. È ancora in corso, però che da una persona violenta che arriva da... a qualcosa proprio di estremo, io sinceramente non lo so, poi sarà la giustizia che farà chiarezza perché deve essere fatto chiarezza. Sì. Chi ha sbagliato insomma pagherà sicuramente. Di tutta la reazione che c'è stata, addirittura io devo dire ci sono state delle reazioni, siccome uno dei due fratelli bianchi aspetta un figlio dalla propria compagna, sono state delle reazioni sicuramente devo dire volgarissime, sbagliate, prendendosela anche col figlio, col feto, insomma il feto non è ancora nato, il bambino in pancia di questa ragazza. Anche diciamo nella mia persona, mi hanno attaccato in tutti i modi, mi ho spiegato, io sono un professionista, detto, no, certo. Io ho deciso di difendere perché ogni persona ha diritto alla difesa, ci mancherebbe. Non sto facendo il paragone, ma per dire, e si dice sempre, anche il criminale più efferato ha diritto, sì, siamo diritto, in uno stato di diritto, a un avvocato difensore, fortuna, e ci mancherebbe. Ma lei che ne pensa di tutta questa, di questo accanimento? Li ha sentiti anche lei? Guarda, arrivano anche qui messaggi: uccidiamoli, impicchiamoli, prendiamoli. Sì, ma infatti io a tutti dico: aspettate che la giustizia fa chiarezza, non dovete fare una giustizia sommaria, sarà la giustizia che non deve essere influenzata, perché purtroppo, come è stato fatto un processo mediatico, già loro sono condannati perché sono palestrati. Poi io ieri, sinceramente, tutto il giorno ho visto che mandava in onda una delle foto di Bianchi Gabriele, che colpiva un sacco di un famoso, non so se la vabbè, quello sarà un allenamento, è l'allenamento, ma quello si tratta delle foto di repertorio di 3-4 anni fa, perché poi il ragazzo non ha più praticato arti marziali, poi non sappiamo neanche effettivamente il colpo come è stato dato, questo perché i testimoni non lo dicono assolutamente. E adesso verranno sentiti, le faccio sentire in conclusione, avvocato, poi la salutiamo, il premier Conte che ha chiamato la mamma di Willy e poi ha detto un messaggio effettivamente che da genitore tutti qualcosa che tutti ci chiediamo. Sentiamo Conte. Quello che voglio dire, ecco, qui come responsabile di governo è: fermiamoci un attimo tutti a riflettere, cosa diremo ai nostri figli. Io ho un ragazzo di 13 anni. Che cosa gli dirò? Di non intervenire laddove vedrà una lite domani mattina, domani sera? Cosa diremo? Che messaggio trasmettiamo ai nostri figli? Perché quali rischi vanno incontro i nostri ragazzi? C'è un ragazzo, appunto, Willy, che è morto, e ricordiamo, non c'entrava proprio nulla, non che uno possa morire per un diverbio, ma lui in questo caso proprio è intervenuto perché ha visto un ex compagno di scuola in difficoltà. Avvocato, che dobbiamo dire ai nostri figli? Di farvi i cavoli propri, scappate? No, assolutamente no, non devono succedere questi episodi assolutamente, perché no, però se uno, diciamo, deve cercare in modo che non devono succedere queste cose qui. Che anch'io, insomma, sono genitore, anch'io capisco la situazione. Va bene, avvocato, noi la ringraziamo e ci aggiorniamo, perché so che c'è l'autopsia, l'accusa, lei ci ha detto adesso, concorso in omicidio preterintenzionale, non è escluso che cambi. Le voglio chiedere un'ultima cosa, scusi, sulla questione razziale, la questione che sarebbe stato sentito... No, al momento non c'è, ma uno dei familiari dire abbiamo ucciso, che hanno ucciso un immigrato in fondo. Questa frase... No, assolutamente. Non detta da loro, ma da un familiare, pare. Non penso che il familiare, assolutamente no. Questa cosa al momento non è contestata. La ringrazio, Massimiliano Pica, avvocato dei due fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Ricordiamo che non sono accusati solo loro, ci sono anche altre due persone, Belleggia e Pincarelli, adesso i nomi di battesimo mi sfuggono, che sono indagati per concorso in omicidio preterintenzionale per l'uccisione di Willy Montero Duarte. Per il momento l'accusa è questa. Va bene, cari ascoltatori, vi siete anche un po' sfogati con i vostri messaggi, li leggo in diretta al 349-238-6666, li potete immaginare alcuni, e quindi insomma sono i soliti. Il tempo dello sfogo, del dire impiccateli o impiccate loro e il loro avvocato. Avete mandato un messaggio del genere in diversi. Vi sentite più tranquilli, più rilassati? Io dico sempre che ho una funzione anche psicologica, perché così, se vi siete scaricati di un pizzico di rabbia, ora potete non scaricarla evidentemente su altri. Cioè, che vuol dire impiccate l'avvocato? Cioè, un avvocato fa il suo lavoro, cioè, non so, adesso Totorina non ha un avvocato? Non aveva un avvocato? Certo che aveva un avvocato, tutti hanno. Ted Bundy in America, che ha ucciso e massacrato diverse donne, aveva un avvocato, ma perdo anche tempo a spiegarlo, insomma è la base del diritto. Va bene, vogliamo cambiare argomento e vogliamo parlare di immigrazione, di immigrati, apriamo una lunga pagina e lo facciamo con il sindaco di Tricesimo, siamo in provincia di Udine, Giorgio Baiutti, buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Partito di, perché non ne sono sicuro, lo dica lei, partito di appartenenza. No, abbiamo una lista civica, orientata diciamo così più al centro, insomma, spostamenti né a destra né a sinistra. No, perché spesso è così nei paesi o comunque nelle cittadine, no? Non c'è mai un partito, ci sono delle liste civiche però. Allora, ci ha colpito la vicenda, finita sui giornali, di questi immigrati che si ritrovano in quarantena su un autobus, che già detta così dici ma come in quarantena su un autobus, a parte che mantenere il distanziamento fisico in autobus quando dormo in autobus è impossibile. A un certo punto se li hai trovati nel suo comune. Sì, no, nel senso che la prefettura di Udine ha, diciamo così, ha dovuto affrontare una situazione di criticità molto significativa e rilevante con l'arrivo dalla rotta che noi definiamo balcanica, cioè dalla Croazia e dalla Slovenia, Friuli, di migranti richiedenti asilo, prevalentemente afghani e pakistani, qualche siriano ma pochi, che la scorsa settimana, tra lunedì e mercoledì della scorsa settimana, ha registrato appunto un numero rilevante di ingressi. Dovendo, diciamo così, comunque ricoverare, spostare queste persone in luogo, diciamo così, in qualche modo controllabile, e la prefettura, diciamo così, non avendo delle disponibilità di locali dove sistemare queste persone, ha pensato di poterle collocare in un piazzale del nostro comune, diciamo così, che è prossimo a un'altra struttura che noi abbiamo qui, che è proprietà della Curia Arcivescovile, che è un antico castello che è interamente recintato, che all'interno però ha una foresteria dove c'è spazio per altri 38 immigrati che fanno le quarantene. Allora, sostanzialmente nel piazzale esterno erano stati parcheggiati tre autocorriere di 40-50 posti, suddividendo queste 75 persone in tre appunto pullman, distanziando qualcosa, ma in condizioni igienico-sanitarie assolutamente inadeguate. Su un autobus ci mancherebbe, insomma. Ma, lei sì, quindi... ma poi pensi appunto che c'era un unico bagno chimico a disposizione di 70 persone, un unico rubinetto dove queste persone potevano in qualche modo lavarsi, insomma, o lavare i propri indumenti, e quindi comunque il contatto c'era in ogni caso evidente. Oltretutto tra queste 75 persone c'erano anche 6 positivi che sono stati inseriti all'interno di uno stesso autobus. È per questo che hanno dovuto fare quattro file di sedie dagli altri. Sì, per questo hanno dovuto fare la quarantena abbastanza incredibile. Cioè, per me uno Stato che arriva a dire non abbiamo una situazione alternativa, come credo abbia detto il prefetto di Udine, quindi in quella situazione dobbiamo fare così. Vabbè, ma lei ha chiesto ovviamente che... noi abbiamo chiesto, diciamo così, di rimuovere questa situazione. Il prefetto ovviamente si era appellato anche ad altri colleghi sindaci chiedendo la disponibilità di spazi anche all'aperto dove poter installare delle tende provvisorie per il ricovero appunto di questi giovani, però ha avuto delle risposte sostanzialmente negative, e finalmente invece lunedì di questa settimana, lunedì scorso, è stata individuata, diciamo così, un'area scoperta dell'ex ospedale psichiatrico di Udine, che è un'area verde molto più attrezzata, all'interno del quale gli autobus però sono stati spostati. Sempre gli autobus però si parla. Due notti i ragazzi hanno dormito all'interno degli autobus. No, ma questa è la situazione, ma sindaco, allora sindaco di Tricesimo, mi faccia salutare l'inviato del giornale e voce che molti amici di Radio Motivato conoscono, Fausto Biloslavo, buongiorno e ciao. Ah, Fausto. Buongiorno. Fausto che si trova tra l'altro in questo momento, ha dichiarato, credo, in una situazione di quarantena, perché ha fatto un bellissimo reportage andando in Bosnia, raccontando quella rotta balcanica a cui faceva riferimento il sindaco, per cui adesso, insomma, devi vivere. Tra l'altro, buona notizia, forse l'abbassano da 14 a 7 giorni la quarantena. Speriamo. Come succede in Francia. Però vabbè, chiusa questa parentesi. Tu, Fausto, conosci anche questa situazione, è abbastanza paradossale, no? È paradossale perché poi, insomma, il sindaco sa che ci sono caserme dismesse, tipo quella di Tolmezzo, ma appunto il sindaco di Tolmezzo, la popolazione non ne vuole sapere, anche con qualche ragione, no? Perché poi a Trieste, per esempio, molti di questi migranti sono stati beccati che uscivano dalla quarantena, qualcuno era anche positivo, insomma, quindi è indubbio che è un problema. C'è anche la Chiesa che ha a disposizione dei luoghi e che ha anche ospitato temporaneamente i migranti in Friuli Venezia Giulia, però è indubbio, insomma, che c'è un aumento degli arrivi dalla rotta balcanica, che è una rotta un po' dimenticata, no? Rispetto a quella del mare, quella del sud. Sì, per la verità, ieri il ministro Lamorgese, il ministro dell'Interno, ha detto che si attiveranno e verrà prestata molta attenzione, appunto, a questo. Sì, verrà prestata molta attenzione, ma c'è indubbiamente un braccio di ferro fra il Viminale e la regione Friuli Venezia Giulia, che dove la maggioranza è a guida leghista con il governatore Fedriga, che dice quando si tratta di attivarsi, di ospitare o cosa, cioè noi vogliamo bloccare questa rotta, insomma, il che non è molto semplice, ma forse si potrebbe fare qualcosa di più, dispiegando, come ha detto ieri Lamorgese, manderà ulteriori rinforzi dell'esercito, ma per esempio l'esercito non sa perché non può usare, oppure li può usare solo limitatamente, quasi segretamente, sembra, non so, che siano in guerra, ma non è così, i droni, le camere termiche, i radar terrestri, insomma. Per a proposito di guerra, prima di tornare dal sindaco, Fausto, tu lo sappiamo, tra Afghanistan, Africa, vari paesi, tutta la regione balcanica, insomma, nella tua vita da inviato di guerra sei stato tantissime volte a contatto con situazioni dalle quali le persone fuggono, perché c'è la guerra, ci sono le carestie, ci sono le difficoltà. Quindi conosci, insomma, quegli istinti di sopravvivenza che portano le persone a dire: voglio andare a vivere dove si sta meglio, perché queste condizioni non vanno più bene. Certamente non dimenticherò mai, non so, durante la battaglia di Mosul, che era la capitale del califfato, queste colonne di civili che scappavano letteralmente sotto le bombe e davanti c'erano i ragazzini più piccoli con le bandiere bianche per aprirsi, insomma, un corridoio umanitario, ecco, veri profughi di guerra che lottano per la vita. Oppure Jugoslavia, ce lo siamo dimenticati, ma c'è stata una guerra spaventosa. Io sono entrato clandestinamente in Kosovo durante i bombardamenti della NATO, con queste colonne di profughi kosovari che scappavano, e spesso mi raccontavano, appunto, i più giovani, gli uomini, i maschi, insomma, venivano presi dalle milizie, in quel caso serbe, messi da parte e con un colpo di pistola alla nuca, insomma, venivano eliminati. Questi, insomma, sono i ricordi drammatici che ho della gente che scappa per salvarsi la pelle, e questa gente sono i veri occhi della guerra, no? Ci sono quelli che li guardi in faccia e ti rendi conto che la guerra è brutta, sporca, cattiva, che le prime vittime sono sempre i civili. Cioè. Sindaco, come la si conclude questa vicenda? Perché lei può dire: io non, sul mio territorio non li voglio, poi li mettono da un'altra parte. Cioè, è una situazione che capisco da sindaco di dover gestire. Uno deve rendere conto al cittadino che poi le suona la porta e le dice: senti, ma cos'è questa situazione qui? Dobbiamo anche un po'... Ma a dire il vero, diciamo così, l'approccio che abbiamo avuto in questi anni è stato quello anche di manifestare una certa disponibilità alla gestione di presenza di immigrati in condizioni però, ecco, di controllo assoluto della situazione. Come accennava prima il Fausto Biloslavo, in realtà anche noi abbiamo avuto nelle giornate, nei 10 giorni in cui questi richiedenti asilo stavano, appunto, parcheggiati in questo piazzale, seppur isolato, diciamo così, nella zona del castello, ci sono state, su un centinaio di persone che si sono alternate in quei 10 giorni, una ventina di fughe incontrollate, perché poi alla fine questa è la situazione. Noi viviamo comunque da alcuni mesi, cioè dal mese di marzo-aprile, una presenza comunque, ecco, di una 35, 38, 33, a seconda dei periodi di quarantena, una presenza di richiedenti asilo che sono invece ricoverati, diciamo così, ospitati all'interno della foresteria del castello, che è un luogo recintato, chiuso, con portone, vigilato dalla Croce Rossa della nostra regione, e quindi in quelle condizioni anche la popolazione capisce la situazione e diciamo così si rende conto anche di questa necessità che diciamo così in qualche modo tocca a Tricesimo, perché la proprietà di quell'area, di quell'immobile, della curia arcivescovile di Udine, che ha dato una disponibilità in questo senso alla Protezione Civile regionale, alla Croce Rossa regionale. Io poi per concludere dico sempre, è un fenomeno complesso che sfugge a regole e soluzioni semplici e semplicistiche. Certo. Per esempio, concludendo con Fausto Biloslavo, sai i messaggi che arrivano: fenomeno Milan, trova tu una soluzione, portateli a casa, prendili a casa tua, portateli a casa della Lamorgese. Fortunatamente nessuno portateli a casa di Biloslavo, che è in quarantena, non potrebbe ospitare nessuno. In realtà Fausto, si può per esempio dire chiudiamo le frontiere, cioè chiudiamo la rotta balcanica, no? Allora, è una mission quasi impossible, no, ovviamente, però per esempio io ho intervistato il primo ministro del cantone di Bihać, che è questa fetta di Bosnia confinante con la Croazia, 200 km di confine, e dove ci sono 8.000 migranti e la loro aspirazione è quella di arrivare in Europa, quindi passare legalmente questo confine. Io l'ho passato con loro, rincorso dai cani, lupo, poi della polizia croata, e poi questi arrivano, se ci arrivano dopo 12 giorni in marcia fino in Italia. Allora questo Mustafa Ruzic diceva l'unica soluzione per quanto riguarda la Bosnia sarebbe mandare 2.000 agenti sul confine serbo, perché da là arrivano, e dopo da là arrivano dalla Grecia, dalla Turchia, cioè bisogna fare un po' la strada a ritroso. Il problema qual è? È che fra le centinaia di migranti che ho incontrato, sono appunto migliaia in questo cantone della Bosnia, ho incontrato solo due famiglie, no? C'è la famiglia di afghani, dei palestinesi, ho incontrato diversi afghani che probabilmente hanno diritto all'asilo, anche se molti scappavano dalla guerra, nel senso che erano poliziotti o militari, hanno detto basta, in questo senso scappavano dalla guerra, la guerra l'hanno fatta e poi adesso scappavano. E però ci sono tantissimi anche, non solo del Bangladesh, del Pakistan, ma anche del Nord Africa, tanti marocchini, algerini, che io ci ho parlato con loro e gli ho detto: ma ragazzi, ma che venite a fare? Non c'è più l'Eldorado occidentale. E loro pensano comunque che troveranno lavoro, hanno l'amico, hanno il familiare e così via. E insomma, inseguono, no, questo sogno che non certo, e loro non hanno nessun diritto ovviamente a chiedere l'asilo, no? Perché in Marocco ci andiamo a vacanza, insomma. No, ma è chiaro, l'idea del sogno e dell'Eldorado c'è comunque. Io ringrazio Fausto Biloslavo, inviato del giornale, e ringrazio il sindaco di Tricesimo Udine, Giorgio Baiutti, e andiamo un attimo in pubblicità, che poi arriva c'è Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Il male dei nostri tempi è che vengono chiuse le librerie, che come si sa crescono le menti, mentre proliferano le palestre, che crescono soltanto i muscoli. Ma a me risulta che siano i dirigenti scolastici che chiedono il rinvio, e quindi mi domando: sarà sufficiente una settimana di rinvio dopo che, come scrivono alcuni giornali, è da marzo che le scuole attendono di riaprire? Sarebbe interessante sapere se quella sera i responsabili del pestaggio avevano assunto sostanze stupefacenti. Scusami Milan, ma fare l'intervista all'avvocato difensore, amico di famiglia, che senso ha? Cosa vuoi che ti dica? O no? Due stinchi di santo. Milan, non se ne può più. Sono spariti i congiuntivi dai giornali, dai vostri ospiti. Solo qualche ministro ancora usa i congiuntivi correttamente. Beh, Leonardo Manera li usa correttamente. Venghi, venghi, Leonardo. Venghi a noi. Venghi a noi. Io, buongiorno. Io avrò tanti difetti. Ne ho tanti di difetti. Mai congiuntivi. Sicuramente. Mai congiuntivi di solito. Di solito non li sbaglio. Anch'io di solito. Poi. Però guarda. Tanti. Se io sarei lì, te lo potrei dimostrare. Vabbè, questa ovviamente era chiamata così. Guarda, Leonardo, però, che quello che ha detto il primo ascoltatore sui libri. Non è una cosa da sottovalutare. Leggo ciò che dichiara a Repubblica il papà della compagna di Gabriele, uno dei due fratelli, questa compagna che aspetta un figlio. Senti cosa dice. Gabriele è un attaccabrighe. Vabbè. Sbaglia i verbi e non conosce i congiuntivi. Questa è la dichiarazione che è la dichiarazione tra tutto che mi ha colpito di più. Eh sì, chissà perché anch'io avevo il sospetto che non fosse un assiduo frequentatore, non sia un assiduo frequentatore di biblioteche e librerie. Po', no? Un po' lo specchio dei nostri tempi, no? Tempi dove la cosa principale è l'immagine, negli anni, nei decenni si tende a dare sempre più importanza all'immagine, che ai muscoli, che per carità però, perché poi la gente fa bianco o nero, non stiamo criminalizzando le palestre, le piscine, i luoghi dove in maniera assolutamente giusta si va a come dire, a fortificare anche il corpo, tonificare il corpo. Non c'è niente di male insomma in questo, poi certo, se uno riesce anche a esprimersi in modo corretto, tanto di guadagnato. Sì. Comunque mi ha colpito, insomma, mi ha colpito questa frase. Prego. Io invece stamattina voglio ringraziare il signor Andrea al Bar Jimmy, perché io sono andato al Bar Jimmy stamattina a fare colazione e ho trovato una mezza brioche per me lasciata dal signor Andrea. Quindi vuol dire che i comportamenti virtuosi si diffondono. Sono contagiosi. Ho iniziato io lasciando la mia mezza brioche, adesso ogni tanto c'è qualcuno che lascia una mezza brioche per me. Sì, ma Fate attenzione, però lui non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno, Leonardo. Cioè, lui lascia mezza brioche correttamente per un altro, ma non è che dovete lasciarla a lui, non ne ha bisogno. Poi diventa un botolo, se dopo deve andare in palestra. Fa sempre piacere. Sì. Dispiace un po' per i baristi, perché se tutti mangiassero mezza brioche, ne pagassero una e poi insomma viene dimezzato il numero delle brioche pagate. Però si sa che il Bar Jimmy già incassa poco, quindi incassare ancora un po' meno non può peggiorare più di tanto la situazione, tanto tra un po' chiuderà. Scusami, quello lì ti ha lasciato mezza brioche, ma ne ha pagata una piena, ovviamente, no? Sì, ne ha pagata una piena, ma io non ho preso la mia, quindi il signor Jimmy ha incassato la metà, invece di incassare 2 euro per due brioche, ne ha incassata una per due persone. Ma tu dovevi tenerti la mezza brioche e a tua volta, per essere davvero contagioso, a tua volta comprare una brioche intera, ma mangiarne mezza. Quindi mangiavi mezza di Andrea, mezza della tua, ne mangiavi una e ne lasci mezza. No, pensaci, questo dovrebbe essere. Ma scusa, certo, ma una volta che io sono, diciamo, godo di questi atteggiamenti virtuosi altrui, basta, io mi fermo lì, non è che vado avanti ancora con gli atteggiamenti virtuosi. Ho messo il seme e basta. Chiedono... Una volta che hai messo il seme, non è che devi continuare a farlo per sempre. Chiedono se la mezza brioche, noto il congiuntivo, sia mozzicata oppure no, penso che la taglia. No, perché il signor Jimmy la taglia con un bel coltello affilato, la lascia su un tagliere, mette in una vetrinetta, poi quando arriva qualcuno, anzi è molto gentile lì, perché ma dice, quando guarda uno che entra che non sa, cosa dice, ma cosa ci fa quella mezza, scusi, cosa ci fa quella mezza brioche? Uno che non sa e vede una mezza brioche in vetrinetta, pensa, ma che schifo mette... è sta roba? No, la mette nella vetrinetta un po' appartata in modo che non tutti la vedano. Ogni tanto qualcuno chiede. Io spero che questo atteggiamento virtuoso si diffonda in tutti i bar d'Italia. Questa potrebbe essere la mia campagna. La tua campagna. La mia campagna. Va bene. Attenzione, sono ripartiti i talk show. Tu sei un grande fruitore di talk show, lo so, io no, ma tu sì. Non ti sarà sfuggito ieri a Ballarò Bersani che conversava con il leader delle sardine, Mattia Santori. Parlavano di referendum e Bersani insomma ha regalato un po' delle sue metafore in qualche modo. Lo so anch'io quante stupidaggini si sono dette. Quante stupidaggini nel descrivere questa cosa. Perché questa è parziale, è una cosa seria. Se uno canta in modo stonato una canzone non è che butto via la canzone. Perché Santori, se parti da questo ragionamento, io credo che ci leghiamo le mani per ogni tipo di riforma. Aspetta, aspetta. Sì, ma se la canzone è brutta, Santori... avrò diritto di spegnere la radio. Vabbè, cioè, per questa proprio di Dio. Se è una riforma semplice che non convince nessuno. Sì, sì. Che mi chiedo se lei è convinto che il Movimento 5 Stelle sia una forza leale con cui poter portare avanti la riforma del Parlamento che lei, di cui parlava adesso. Se una canzone stonata non è che lascio... Se una canzone stonata che pisca... Ma secondo me, infatti, Bersani è il vero padre della sardina. Però posso spegnere la radio, gli ha detto Sartori, e sono andate avanti così. Sì, ma infatti è Bersani alla fine il vero padre putativo delle sardine, perché è il primo che ha iniziato a parlare... Se uno canta stonato, se uno canta stonato, butto via la canzone. Sì. Però posso spegnere la radio se mi dà fastidio. E così sono andate. È bello che subito Santori si è adeguato a questo linguaggio, nel quale peraltro è maestro anche Santori. Sì, ma cosa vuol dire e l'una e l'altra dichiarazione? Cioè, e l'una di che se una canzone è stona, se uno canta stonato, non è che butto via la canzone, eh? Però, cioè la finestra si può aprire in tanti modi, no? C'è l'apertura vasistas, sì. C'è l'apertura completa, sta a te capire fino a dove, in che modo aprirla. Però se c'è l'aria e c'è il raffreddore, la chiudo, no? La chiudo. Quindi io vorrei vedere un comizio intero, non ci sono ancora stato, un comizio delle sardine, ma ci tengo ad andare per prendere un po' di materiale. Sì, giustamente ho chiamato Ballarò, ho detto, ha iniziato Ballarò, si chiama Di Martedì da anni, giustamente. Vabbè, questo è per come io sono fedele ai talk show, Ballarò, sponsorizzato dalla SIP. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Effettivamente, ma parlate un po' tutti così le sardine, Santori, c'è questo modo... Un po' tutti, cioè te stai cercando di generalizzare, dire che siano tutti uguali. No, Elenio, cioè, no. Non è mica... No, cioè non è che per prima cosa devo dire che per capire con una persona se ti trovi bene ci bevi qualcosa insieme, c'è chi ci beve la spuma, c'è chi ci beve la birra... C'è chi ci beve l'orzata, il latte con la menta. Sì. E quelle sono le cose, le prime cose che ti fanno capire se puoi, diciamo, andare d'accordo, sì. Avere anche un programma comune. E cioè dipende dalla cosa che ci bevi insieme, no? La birra chiara, sì, la birra scura, anche il vino bianco frizzante con le bollicine. Cioè, dipende un po' da questa cosa qui, penso di essere stato abbastanza chiaro. Chiaro che se non vai d'accordo spegni la radio, no. Se non vai d'accordo cambi bar. Non è che se una cosa che non ti piace devi chiudere tutti i bar, no? Se una cosa non ti piace magari è solo quel bar lì che non va bene, ti sposti di 50 metri e trovi una bibita che ti piace di più da bere ginger, anche con gli altri, ginger, per esempio, anche il ginger, cioè io la penso in questo modo, non è che cioè, in un bar ti danno magari una birra che non ti piace, no, tutte le birre fanno schifo, no, cambi bar, trovi un altro barista, un'altra birra e magari trovi anche una persona con la quale bere quella birra. La spuma, è più educata quella bionda o quella nera? La spuma... Questa è una domanda un po' aggressiva. No. Cioè, penso che da parte sua questo tipo di domande, se vuole essere un giornalista corretto, dovrebbe evitarle. Cioè, lei sa che c'è la spuma chiara e la spuma scura, però poi ognuno sceglie nel segreto del bar la spuma che preferisce. Va bene, grazie Elenio Mariotti, devo dire tornate le sardine, la grande, a Di Martedì e alle. Va bene, caro Leonardo Manera, eccoci qua, a te il microfono. Allora, lunedì sul Corriere della Sera, in una pagina dedicata alla scuola, c'era un articolo che recitava: cosa fare se un alunno risulta positivo al test? Senza leggere l'articolo, la risposta che do io è mettersi le mani nei capelli per chi ancora li possiede, non è il mio caso. Mettersi le mani nei capelli perché l'ASL, a quel punto, è competenza dell'ASL, potrebbe decidere di mandare tutti in quarantena e per 2 settimane fare didattica a distanza, proprio come durante il lockdown. La didattica a distanza, quando l'ha fatta i mesi scorsi mio figlio, si svolgeva più o meno così. L'insegnante faceva una domanda, io dicevo sottovoce a mio figlio, non guardare il libro, non guardare il libro. Mio figlio non lo guardava più, però sottovoce mi diceva, dimmi la risposta, dimmi la risposta. Alla fine io gliela suggerivo, lui rispondeva e prendeva 4. Ma il problema riguarda anche e soprattutto i docenti, quelli che non sono venuti a contatto con l'alunno positivo nei 2 giorni precedenti i sintomi, possono continuare ad andare a scuola. Gli altri invece dovranno anch'essi stare in isolamento, i docenti, e in teoria potrebbero continuare a fare lezione da casa, ma i sindacati hanno fatto presente che la materia va regolamentata. Quindi in teoria ci potrebbe anche essere qualche insegnante che si rifiuta di fare lezione in questo caso. E poi che fare con gli alunni di una classe dove non c'è nessun alunno positivo, ma c'è invece un insegnante che in un'altra classe è venuto a contatto con qualche studente positivo? E poi ancora, basterà un colpo di tosse di un docente per inibire le ore di insegnamento? I presidi andranno di casa in casa a controllare le gole più o meno arrossate dei professori? In mancanza di tamponi rapidi saranno i bidelli che andranno nelle classi protetti da scafandri a chiedere ai potenziali untori magari di dire 33? Ci sarà un gran bisogno di supplenti, sarà la rivincita dei supplenti su tutto il corpo docente. Gli insegnanti di ruolo saranno spessissimo a casa in attesa di capire se fare lezione online oppure no. E i supplenti, prima di rimanere a casa loro stessi, manderanno probabilmente avanti le classi dei nostri ragazzi. Si arriverà al supplente del supplente, il supplente al quadrato. Verrà distrutto l'immaginario erotico che abbiamo della figura del supplente. La supplente va in vacanza con tutta la classe, la supplente dà ripetizioni private, Pierino è la supplente di educazione fisica. Stop! Una volta per sempre a tutto questo. Il supplente diventerà il presidio fondamentale per l'istruzione ai nostri ragazzi. Ragazzi che dovranno abituarsi all'idea di avere supplenti veri, non più larghi di manica come avveniva in passato, supplenti giovani probabilmente, che però fin da subito dovranno abituarsi a farsi valere, a minacciare brutti voti, a pretendere interrogazioni soddisfacenti, e tutto questo è un vero dispiacere. Perché il supplente, noi che la scuola, almeno quella elementare, l'abbiamo fatta in un altro periodo storico, il supplente allora, o meglio la supplente, l'abbiamo sempre vista come una persona più vicina agli studenti, più umana, più comprensiva, più empatica. Io dalla mia prima supplente mi ero perfino innamorato, in prima elementare, e allora ero andato in campagna con mio padre a cogliere dei fiori che poi le avevo regalato. Lei li aveva accettati e poi mi aveva dato un bacio sulla guancia, che ricordo ancora. Ma la magia durò poco. Rientrò il maestro di ruolo, un omone che di cognome faceva Truzzi e al quale mi sembrava fuori luogo regalare fiori per ricevere un bacio sulle gote. Ma erano altri tempi, c'erano ancora i fiori, c'erano ancora le supplenti larghe di manico e soprattutto non c'era ancora il coronavirus. Ecco, ecco. Attenzione, caro Leonardo, arriva, ci perdoni la battuta, questurina Lisa. Questurina Lisa dice che la mezza brioche potrebbe essere rischiosa per il contagio. Per il contagio. E quindi ci chiede: non è che la mezza brioche aumenta i rischi di trasferimento del Covid? Chiede questurina Lisa. Oddio, se la mangiassimo contemporaneamente io e la persona che me l'ha lasciata, così sì, avvicinandoci con le labbra, col gioco della sì, mela, sapete quel, no, quel esatto, gioco, quel sì, gioco che si mangia, vediamo chi arriva per prima metà, alla fine anche un bel bacio scoccato alla marmellata, così alla marmellata. No, non no, è così però, perché il signor Jimmy la taglia col coltello, con la seghetta, poi mette, poi il cloro, mette il cloro sopra, la disinfetta con dell'alcol e quindi viene via una bella brioche sana, sana soprattutto. Però bella, ci ha dato una buona idea Lisa, quella di mangiarla contemporaneamente, io da una parte e un'altra persona dall'altra, può essere un modo per socializzare nei bar anche. Ecco, ecco, ecco. No, questa è bocciata. L'altra della mezza brioche te la sposo, di lasciare contagiamoci con la bontà della mezza brioche lasciata. Va bene, caro Leonardo, ci fermiamo qui per la prima ora. Giornale radio e poi rientriamo. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Contenti gli insegnanti, pur fra mille preoccupazioni. Bellissimo. Cioè, devo dire, rivederli ho detto, ah, meno male, allora la scuola ha un senso. Contenti gli studenti, anche se seduti al banco con la mascherina. Sicuramente qualcosa di diverso, ma un'emozione rivedere i miei compagni. Nella didattica a distanza quello che non ci ha permesso era lo stare insieme fisicamente. Molto più bello, secondo me, ritornare in classe rispetto ovviamente alla didattica a distanza, però vabbè, è stato appunto necessario. E contenti anche i dirigenti scolastici, alle prese con una sfida senza precedenti. Sì, per me è stato bello rivederli, siamo contenti, perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assolutamente abbastanza inutile. Radio Day, lunedì 14 settembre, nei GR e nei programmi le voci dalle regioni in cui suonerà la campanella. Una ripartenza con tante incertezze, ma che rappresenta anche un'opportunità per fondare una nuova scuola. Appuntamento il 14 settembre su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma manera, te controlla che l'era Covid free la mesa brioche. Milan, Manera, ma in Puglia, o perlomeno nel mio paese, Martina Franca, il mezzo cornetto è una cosa ormai diffusa da tantissimi anni. Il mezzo cornetto è un classico. Beh, Milan, questo è un messaggio per Leonardo. Non avevo dubbi che Leonardo non sbagliasse alcun congiuntivo, in quanto ha avuto il mio stesso professore al liceo, il professor Lozia, perché io sono di Salò, salutamelo. Salutami chi? Lozia o Manera? Adesso non lo so. Chi è che... ecco, ci dispiace. E la tua app purtroppo funziona male, prova a scollegarti e ricollegarti, però vorrei sapere come era questo professor Lozia, se era un professore di quelli severi oppure un professore di quelli buoni. No, il professor Lozia era quello che ti dicevo interrogare coi dadi. Coi dadi, chissà. Era quello che interrogava coi dadi e che se tu chiedevi di essere giustificato, lui ti giustificava, ma non ti giustificavano i dadi. Quindi se uscivi coi dadi e dovevi comunque essere interrogato. Certo. Però convengo, non so chi fosse la signora che ha telefonato, non credo una mia compagna di classe, perché magari avrebbe detto il nome, ma è vero che il professor Lozzi era almeno un ottimo professore, preparato bene sui congiuntivi. Questo. Allora, a proposito di scuola, voglio fare una grande polemica sulla scuola, perché io mi sono stancato. Allora, è giusto che la scuola metta le regole che sono anche folli. Non si possono scambiare la gomma, le penne, come dicevi tu, cos'è, i professori toccano i fogli, non lo so, con i guanti, poi li possono lasciare. Il cartaceo ci vogliono 48 ore. Una roba che, per carità, dal punto di vista delle regole è giusta, ma è incredibile che tutto questo avvenga a scuola, quando fuori dalle scuole, ma basta andare a guardare su Facebook, andate a vedere, a controllare tra i vostri amici che pubblicano foto di feste, foto di cene, foto di gente ammassata. Io abito in una zona che viene pomposamente definita Nolo, a Milano, ma vieni a farti, Leonardo, un giro il venerdì sera, locali per carità all'aperto, ma dove ci sono centinaia di persone, tutte attaccate, bevono, ridono, si sputacchiano, slinguano, eccetera. Però basta che a scuola non ci si scambi una penna. Vabbè, tu lo sai perché. Perché semplicemente siamo il paese in cui basta che uno sia... io sono a posto, non ho alcuna responsabilità. Qui a scuola sono stati tutti a un metro, non si sono scambiati una penna. Ma io dico, ma per il beneficio, per la comunità, che cosa cambia se uno fuori dalla scuola poi si sputacchia un mezzo metro notte e giorno, ammassandosi, facendo cene, feste, pizzate? Cioè, cosa se cambia? Vuoi ti do io un'altra risposta. Dammi una risposta. Leo risponde facile. è a causa della polemica politica, perché se non venissero messe queste norme così stringenti, poi se ci fosse un contagio, qualsiasi cosa che non va, l'opposizione in questo caso, ma prescindere dall'opposizione, direbbe: voi non avete messo le norme, qualcuno si è contagiato. Certo, e quindi ma si è contagiato fuori, si è contagiato al giardino pubblico, però, e poi va a scuola, sì, ed è contagiato a scuola, ma si è contagiato facendo i compleanni, facendo le feste, le pizzate. Però poi l'opposizione avrebbe modo di polemizzare, quindi è anche per questo che vengono messe norme così stringenti, per poter sempre dire: noi siamo a posto, noi il nostro abbiamo fatto. Esatto. Poi se uno si vuole contagiare come te facendo la movida in Viale Monza, allora è libero di farlo. La movida in Viale Monza non è che c'è molto, c'è il mitico spazio Nolo della mia amica Jessica a Viale Monza 43. Sul tuo campanello c'è scritto Ale Movida, comunque Ale, non aggiungo altro. No, ma cioè, comunque è una follia, cioè tutte le regole, cioè la scuola sembra il luogo dove si deve rispettare la regola che sennò ti mandano in carcere se uno passa una gomma al compagnetto o alla compagnetta. Però fuori dalla scuola invece, ovviamente, fatti vostri, insomma, eccetera. Sentiamo Lazzolina. Tra l'altro, su questo devo dire, Lazzolina ha ragione, ministro dell'istruzione, ma non se ne può più anche di questa cosa. Ma scuola, bisogna partire, aspettare, ritardare, slittiamo. Certo, ci sono stati solo sei mesi per preparare il rientro a scuola. No, non siamo pronti, non arrivano i banchi. E giustamente Lazzolina dice: il rischio zero non esiste. Volete il rischio zero? Andate a vivere sulla Luna. Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a scuola. Proprio per questo sarà fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto delle linee guida e dei protocolli emanati insieme alle competenti autorità. Comunque, il rischio zero non esiste. Se no, andate a dirlo alle cassiere che hanno lavorato in lockdown, alle forze dell'ordine che hanno lavorato in lockdown, ai medici, agli infermieri, ai tassisti, non lo so, a tutti quei tassisti, forse no, perché era tutto bloccato. A tutti coloro che hanno lavorato quando c'era la crisi pesantissima a marzo, eppure andavano a lavorare, che avevano il rischio zero garantito quelli. No, anzi, purtroppo molti si sono ammalati. Però il rinvio ha pur sempre un suo fascino, sì, perché il rinvio ti permette di essere ottimista. Ma vero, io mi incazzo tremendamente quando leggo la parola rinvio, no. Che ottimista! Il rinvio ti permette l'ottimismo, perché dice: quando si riprenderà andrà tutto bene. Invece fare le cose ti obbliga a confrontarti con la realtà e quindi anche con, potenzialmente, con eventi negativi. Io sono a favore sempre del rinvio. Stupendo, ma la ricreazione seduti, ci scrive uno, più che la mascherina servirà l'eparina, effettivamente la ricreazione seduti, ma voi vi immaginate, i ragazzi devono star seduti, ma poveri ragazzi, praticamente si traduce così: a scuola rispettate tutte le regole, poi fuori scuola vai al parco e stai attaccato a chi vuoi. Questo non che io lo dica, ma questo è quello che fanno i ragazzi. Antonio da Milano, buongiorno Antonio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione e complimenti a Manara, che sicuramente non è il numero uno, è il numero uno bis. Milo Manara. Va bene anche Manara. Molti mi confondono con Manara, perché Manara... Sì, Milo Manara. Cioè, esatto, via Luciano Manara, Milano, patriota. Ecco, sì, giusto. In molte città. Vabbè, comunque Antonio, che ci vuol dire? Niente, è una cosa molto semplice, perché purtroppo in Italia ormai si sta assistendo a tutto al contrario di tutto. Ho sentito anche pareri di eminenti esponenti, tipo il professor Galli, famoso dell'ospedale Sacco, per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Sì. Io faccio un ragionamento molto banale: da 59enne che cominciava le scuole elementari il 1 di ottobre, non so se vi ricordate, eccetera eccetera, e anche sentendo parecchie casalinghe, parecchie mamme, parecchie papà, voglio dire, dovendo scegliere la data delle elezioni, ma con quale criterio si è scelto il 20, quindi far riaprire le scuole il 14, chiuderle, far votare, sanificare, eccetera, eccetera, e poi riaprirle? Caro Antonio, infatti non c'è stato nessun criterio, a parte che la data è stata, credo, stabilita, sfida Luchetti, del referendum ben prima anche del Covid, forse, non lo so. L'avevano detta la polemica di dire perché non far votare nelle caserme, eccetera. Guarda qui le follie, Leonardo. Mio figlio, anche mio figlio e anche il tuo che gioca a calcio e anche quello di questo ascoltatore deve mettere la mascherina per andare al centro sportivo fino agli spogliatoi, la toglie e si allena a calcio abbracciando i compagni e dando il 5 quando fanno gol, si scambia le borracce e qui è sbagliato. I miei, per esempio, il mio figlio hanno detto portate le borracce nominali col nome a basket. Finiti gli allenamenti non può fare la doccia e deve mettere la mascherina per uscire e poi va a mangiare la pizza con i compagni di squadra. Cioè, capite? La verità è che le istituzioni, questo come ci scrive un altro ascoltatore, fanno di tutto solo per pararsi il cosiddetto. Poi fuori fate quello che volete, che è anche giusto se vuoi. Fuori sei responsabile di te stesso. Però allora ti racconto rapidamente cosa mi è successo la settimana scorsa. Ero andato in piscina a nuotare, avevo lasciato la mascherina negli spogliatoi. Sì. Quando sono arrivato in piscina, il bagnino mi ha detto: guardi che deve tenere la mascherina anche fino a quando arriva proprio in piscina, sì, mi ha detto. E proprio, poi però quando nuota la può togliere. Questo è stato rassicurante. Ha tenuto a precisare. Ma come? Non ha la mascherina, quella resistente all'acqua. Vabbè, dai, andiamo al traffico. Poi Giovanni da Roma subito dopo. Uno, nessuno, 100 Milan. Vedi che sfida Lucchetti è una garanzia? Il referendum in realtà era previsto il 29 marzo ed è stato rinviato come tutto per il Covid, quindi è stato rinviato, vabbè, alla fine, al 20-21 settembre. Questo hanno deciso, e hanno deciso a luglio. Certo, decidendo a luglio, la coincidenza con la ripresa della scuola, potevano prevederla. Ma perché un politico deve prevedere una cosa? Si ragiona. Secondo me perché contavano sul rinvio dell'inizio della scuola. Ah, detto, ecco, beh, noi certo, intanto cominciamo a votare, tanto l'inizio della scuola sarà rinviato e quindi andrà tutto bene. In alcune regioni si inizia appunto il 24, in altre stanno cercando di slittare. Sì. Comunque Giovanni da Roma, per esempio. Giovanni, buongiorno, lei è genitore? Mi collego a questa sagra dell'ipocrisia, sì, della seconda parte della trasmissione, perché io sono letteralmente indignato per le reazioni ipocrite e pelose sulla vicenda di Colleferro, di quel povero ragazzo. Cioè? Tutte le città, tutte le sere sono, la mattina leggi i giornali e vedi che fanno a botte, a pugni, si vedono, si contattano e prendono appuntamento. Tutti i giorni, siamo a Roma addirittura, siamo arrivati ai poliziotti che vengono aggrediti quando dicono di mettersi la mascherina. Quindi siamo in un paese che ha questa violenza oramai strutturale e adesso, siccome questa volta ci è cascato questo povero ragazzo di una cosa assolutamente non imprevedibile, prevedibilissima, perché fa parte oramai della cultura della gioventù questa cosa, sì, non di tutta la gioventù, sono indignato a leggere i giornali, a vedere la televisione, Giovanni, però non di tutta la gioventù, sono la stragrande maggioranza di giovani sani che vogliono divertirsi non con la violenza, purtroppo però lei ha ragione a dire che è aumentato il numero anche, sì, ci sono inchieste di ragazzi, bande che si danno appuntamento per picchiarsi. Ma lo sai, Leonardo, per esempio sui Navigli, no? Sui Navigli di Milano, zona molto turistica, molto anche affollata di ragazzini che magari a 18 anni vogliono fare le prime uscite serali, a una certa ora, o altre zone di Milano sono un po' a rischio perché girano delle bande che hanno l'unico scopo quello di picchiare, far risse, fare il gruppo aggressivo. Purtroppo sì, devo anche dire che sono fenomeni che ci sono stati anche in passato, sì, a me capitò, sì, personalmente, a un mio amico capitò, quella sera c'ero anch'io, gli venne rotto uno zigomo all'uscita di una discoteca proprio così, perché lui, no, sempre a causa di una ragazza, lui fece forse sì, un commento forse su una ragazza e il suo fidanzato prese un palo che c'era lì, glielo diede in faccia e gli ruppe lo zigomo. Però sai, è uno uno, cioè il fenomeno delle bande che vanno in giro giusto per dire andiamo a attaccare brighe, purtroppo non so, c'era anche i nostri tempi ovviamente, però forse è un po' aumentato, questo dice l'ascoltatore che ringraziamo. Allora, Giordano Biserni, buongiorno, salutiamo Giordano Biserni, un grande ritorno, presidente dell'Associazione Amici Polizia Stradale, eccoci qua Biserni. Buongiorno Milan, a tutti gli ascoltatori. Allora, caro Leonardo Manera, sono entrate in vigore, ma Giordano Biserni ci aiuta a capire bene, tutta una serie di misure che servono, secondo i detrattori, a fare cassa ai comuni. Pensa un po', caro Leonardo, i autovelox anche nelle vie cittadine. E poi soprattutto la cosa che mi ha colpito, i netturbini che potranno fare le multe, immagino per divieto di sosta, i netturbini. Tu Leonardo hai problemi di multe? Fai conto che ci sono stati 3 anni consecutivi in cui il giorno del mio compleanno, il 20 aprile, sì, per 3 anni di seguito, mi è stata rimossa la macchina perché l'avevo lasciata in zona rimozione forzata. Ma scusa, ma cosa c'entra? Sapevano che era il tuo compleanno, ma scusa, anche tu la lasci... Giordano Biserni, non commentiamo questa cosa. Sì. No, ma che succede? I comuni vogliono far cassa, Biserni? Il sospetto da questo punto di vista c'è sempre, però la serie di provvedimenti nasce appunto con questa normativa nuova della semplificazione che ci fa trovare 19 modifiche al codice della strada e alle leggi della strada, quindi questo già è arrivato con passo felpato, passo estivo, ci siamo trovati con queste modifiche importanti. Noi ci auguriamo che non sia una logica della cassa, intendiamoci. Chiariamo subito, Mina, gli autovelox in area urbana si potevano mettere anche prima, solo sì, che ora parliamo degli autovelox fissi, quindi quelli senza la presenza degli agenti, però ci vorrà sempre l'autorizzazione del prefetto, che dovrà verificare se in quella strada c'è un tasso di sinistrosità elevato o addirittura di mortalità in alcuni casi, perché che richieda questa esigenza. Questa è la precondizione, spieghiamolo questa bene agli ascoltatori. È il vaglio della pericolosità del tratto, che non, sì, quindi l'autovelox fisso non potrà essere messo solo sulle strade di scorrimento veloce delle aree urbane, ma anche sulle altre strade laddove ci siano delle condizioni particolari che devono essere vagliate prima. La proposta la farà il comune, ovviamente, poi ci sarà un vaglio della polizia stradale con un parere e un provvedimento del prefetto, intendiamoci. Una cosa però, ragazzi, cioè, mandate, io vado a Milano, ormai dai, ma li vedete nel traffico, e tutti o telefonini o sinistra, destra, ecco, superare qua, là, strisce pedonali che nessuno rispetta. Io non lo so quale sia la soluzione a questo. Ma guardi, la soluzione non lo so neanche io. Diciamo che questo provvedimento intanto riguarda da vicino anche, per esempio, piste ciclabili, ciclisti, per agevolare il loro passaggio, per renderlo più scorrevole, eccetera, tutta una serie di provvedimenti che riguardano appunto queste postazioni. Però infatti noi siamo rimasti abbastanza stupiti per questo motivo, cioè noi ci aspettavamo che in un provvedimento come questo venisse fuori, per esempio, finalmente la sospensione della patente alla prima violazione per chi usa il cellulare alla guida o chi messaggia o chi fa fonia, messaggistica, eccetera. Sì. Niente, sono 5 anni che ne parliamo tutte le estati e questo non c'è, così come non ci sono altri provvedimenti che ci stavano a cuore. Andava picchettata meglio la legge, per esempio, sull'omicidio stradale, che ha bisogno di alcune smussature da una parte e l'eliminazione di alcune corsie preferenziali che abbassano le pene. Voglio dire, il trasporto pesante, c'è una situazione che richiede attenzione tutti i giorni, ascoltando le vostre notizie sulla viabilità, traffico bloccato, incidente, tamponamenti di veicoli pesanti, qui bisogna vedere tempi di guida, di riposo. Allora la domanda è questa: ok, gli autovelox fissi, ok, diamo la possibilità agli ausiliari, lei parlava prima degli addetti ai rifiuti, eccetera, potranno sanzionare secondo questa normativa solo i veicoli che sono in sosta vicino ai cassonetti, ma quelli che ostacolano la presa dei rifiuti, io lo trovo anche giusto, cioè, sì, no, perché qui la linea è questa, caro Leonardo, c'è chi dice, come Giordano Biserni, sì, ci vuole un po' di, uso questa espressione, pugno di ferro, nel senso, è come un piano inclinato, lentamente la pallina è scivolata e adesso lentamente negli anni la gente nel traffico va fottendosene di superare limiti di velocità a destra, a sinistra, perché secondo me per anni c'è stato ogni anno, ogni volta, ogni mese un piano inclinato di permissività sempre più ampia. Adesso allora, vai a recuperarla la situazione. È difficile. Cioè, allora, noi abbiamo visto schieramenti di pattuglie veramente come devo dire, notevoli all'epoca del Covid-19, in tutti i sensi, in tutte le direzioni, dalle spiagge all'entroterra, dalla collina al mare. Queste pattuglie poi non ne vediamo più spesso alla fine di questo lockdown. Allora la domanda che ci facciamo è: ma questa direzione verso la privatizzazione, verso gli ausiliari, pur giusta, non può essere però coniugata con un indebolimento delle strutture istituzionali, parlo della polizia stradale in genere, sulle strade per esempio statali e provinciali, sì, che sono le più pericolose? Perché noi non è che possiamo far tutto con l'elettronica, perché faccio un esempio di quello che diceva Milan, sì, chi è che va a certificare se io guido usando il cellulare o smaneggio o mi guardo la partita durante la guida o non uso le cinture o sono ubriaco o sono drogato o non rispetto i tempi di guida o salto i riposi o tolgo il limitatore di velocità? Ecco che torniamo a un punto molto semplice, che serve l'arbitro sulle strade, non serve solo la VAR che ci dice se quello era, sì, poi lo vedrò, sì, dopo, eccetera, no, serve un arbitro che fischi immediatamente, voglio dire. Quindi questa è una condizione, questi provvedimenti che hanno una loro logica e hanno anche, trovano anche in larga parte il nostro consenso, purché non si volino, come diceva lei Milan, sì, nel piano inclinato verso la cassa più che verso la sicurezza, perché questo ci preoccuperebbe molto. No certo, non so Leo, tu che ne pensi? Io per esempio ho la sensazione che rispetto all'uso del telefono invece adesso ci sia più sensibilità rispetto a qualche anno fa, cioè credo che le persone stiano più attente, almeno questa è la mia sensazione. Dici? Non lo so. Ma io ho qualche perplessità, sono più attente, secondo me molti non prendono la multa. Io li ripeto sempre, siamo un popolo, siamo campioni olimpici di lancio del cellulare alla vista della pattuglia, c'è poco da fare. Cioè, arriva, track, via. Vabbè, Giordano Biserni, intanto grazie, vedremo come vanno queste nuove normative, anche lì a dire appunto i netturbini fanno le multe, grandi titoloni sui giornali, ma se il netturbino arriva, deve svuotare un cestino e lì c'è una macchina in divieto di sosta che gli impedisce o le impedisce di togliere la spazzatura, ma è giusto che voglio dire che il netturbino possa fare una multa. Non è che il netturbino sennò va in giro e fa le multe così a caso. Sai quante volte mi sono alzato io a luna di notte di corsa per andare a spostare la macchina perché l'avevo lasciata dove c'era la pulizia strada anni fa abitavo, ecco, giovedì perché poi sera, non ricordo dormi. Ancora. Ecco perché poi, sì, non dormi, ti devi svegliare di colpo, mi svegliavo e ho detto l'ho lasciata lì, e dopo mi alzavo, correvo, ma regolarmente erano già passati e mi trovavo la multa. Fantastico, scrive un ascoltatore o ascoltatrice. Era 2 anni che chiedo la mezza brioche al mio bar. Se domani ti mando il numero del bar, li chiami? Sarebbe meraviglioso, caro Manera. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che va a chiedere la mezza brioche al proprio bar e viene preso per matto, forse. Invece deve stabilire un rapporto umano col barista. Dopo il barista si convincerà e darà anche a lui la mezza brioche. Mezza tutto brioche. Passa. Guarda, ti do le 3 regole che dice anche il mio amico psicologo Luca Mazzucchelli. Sì. Se vuoi ottenere dei risultati, sì, le 3 regole sono essere, fare, avere. Cioè prima essere, cambia tu, poi muoviti in quella direzione, dopo il tuo cambiamento alla fine e vedrai poi che i risultati arriveranno. Mazzucchelli non ha questa voce però. No. Il professor Jansen, mi ricordo. Va bene, dai, andiamo sullo sfondo che poi non potete vedere, grazie a voi e buon per voi, di questo losco figuro che si è palesato in regia, Mauro Meazza. Su questo sfondo tetro andiamo a sentire come va la bocca. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Allora, caro Leonardo Manera, ieri qualche ascoltatore, riprendendo anche qualche articolo, ci ha detto: ma guarda un po' il vostro Daniele Belotti, visto che lo chiamiamo spesso, cosa combina? Vuole l'apartheid degli autobus nella Val Brembana, credo, dalle sue parti, non lo so bene. Ol Belot, che cavolo ci combini? Ma allora, premesso che sono stato a vedere uno spettacolo di Leonardo Manera in Alta Valle Imagna. Tenta la captatio benevolenze. Tenta la Costa Valle Imagna, sì, sì. Tenta la captatio benevolenze. Sì, sì, eccoci. Invito tutti gli ascoltatori ad andare a vedere gli spettacoli di Leonardo Manera. La prende larga. Mi sono conquistato uno dei due conduttori radicali. No, questa storia qui nasce da un'interpretazione strumentale ignobile che ha fatto. Sì, ma intanto dove sei che il cellulare non si sente? Sei in una delle valli bergamasche? No, sono a Punta Siena. A Punta Siena. Ah, già, è vero, sì, che è responsabile, sì, della Lega in Toscana, succedono delle cose, sì, strane. Sono stato mandato in questa terra bellissima, ma dove se organizzi un pranzo con Matteo Salvini il ristoratore viene minacciato, sì, con intimidazioni, recensioni pesantissime sui vari siti, e quindi rinuncia di fare la disfetta. Vabbè, ma adesso stai menando il camper l'aia, come si suol dire. Sto sul pezzo. Sì. Allora, problema trasporti in Val Brembana. Sì. Ci sono grossi problemi, adesso col Covid diventeranno ancora più pesanti. In fondo la Val Brembana, località Botta di Sibrina, c'è un centro d'accoglienza da 6 anni che ospita fino a 190 richiedenti asilo. In una località che ha 800 abitanti, quindi già l'impatto è piuttosto pesante. Sì. Non sono tutti educati e non possono usare sugli atti di intimidazione, minacce, sì, molestie, sì, di ubriachezza, di risse. Lasciano perdere quello. Problema trasporti. Ogni mattina tutti insieme, 30 o 40 di questi ospiti, sono alla fermata del pullman e prendono d'assalto, spintonando e mandando via magari le persone, i residenti, prendono d'assalto, tra virgolette, salgono sull'autobus, riempiendolo senza pagare il biglietto. In un momento in cui c'è una situazione di forte disagio, grossa problematica, sì, del trasporto, noi abbiamo semplicemente chiesto al prefetto, sì, che impegni, interessi, gestori, la cooperativa che gestisce il centro d'accoglienza della Botta di Sibrina, per differenziare gli orari di partenza. Quindi attenzione, se ho capito bene, tu hai chiesto al prefetto, avete chiesto al prefetto di dire salgano, che ne so, invece che 30, mettiamo che 30 sia la capienza massima per il Covid, mettiamo 30, chi se ne frega. Ne salgano 10 invece che 10 a ogni pullman, così possono salire anche altri. Signori, se vengono differenziati gli orari degli ingressi delle scuole, sì, o degli uffici, è un reato chiedere che venga differenziata anche gli orari di uscita da un centro d'accoglienza. No, reato. Però chiedo, quindi non chiedi autobus separati? Questo è un punto importante, perché l'accusa di apartheid è terribile, giustamente. Ho letto, parlano come nell'Alabama, come nel Sudafrica dell'apartheid, come addirittura un giornale cattolico ha parlato di leggi naziste. Vabbè, naziste, ragazzi, non esageriamo, se tu hai un problema reale. Gli studenti come fanno ad andare a scuola? Gli studenti della Val Brembana? Però la domanda è questa, quindi diciamo, sì, contingentare l'ingresso, altrimenti occupano subito. Perché differenziare, sì, contingentare. Differenziare gli orari d'uscita dal centro d'accoglienza, sì, cioè, in come modo dire, che non si ritrovino tutti, esatto, insieme. Cioè, ne escono 10, sì, questo, diciamo, sì, che possono salire sull'autobus solo 10 alla volta, che ne so, 10 a ogni corsa d'autobus. Però domanda. C'è un altro aspetto, scusa, non lo so da poco. Allora, questi vanno tutti 30-40 insieme alle 8 di mattina, però se tu sono all'interno di un centro d'accoglienza, tu devi sapere dove vanno. Ma infatti c'è la domanda è anche questa, però scusa, se escono evidentemente perché possono uscire, sì, non è che evadono, certo. Ecco, allora no, possono uscire. come escono di casa gli italiani, a te non te ne frega se salgono su un autobus, non è che chiedi dove vanno. No, gli italiani escono se possono, se non sono in carcere, e vanno e salgono e vanno dove vogliono. No? Però è una situazione un po' diversa, questi sono richiedenti asilo, quindi non è che hanno un permesso di soggiorno e possono fare tutto quello che vogliono, sono richiedenti asilo, quindi è lecito chiedere. Vanno a lavorare, se vanno a lavorare credo in che modo sia regolare, forse. Allora hanno il reddito, le norme prevedono che se uno ha il reddito esce dal centro d'accoglienza e va a prendersi un appartamento per conto suo, si arrangia, non va a spese della comunità, dei contribuenti. Se invece vanno non a lavorare, ma a fare attività ignote, alcune delle quali magari sono illecite, allora ho capito, sono anche state denunce di spaccio. Sì, però quello vale, allora, è lì l'accusa che arriva di razzismo, cioè perché no, cioè se un italiano esce e va su un autobus e va a fare delle attività illecite o di spaccio o ignote, cioè non è che c'è ogni poliziotto segue ogni cittadino a capire dove stai andando, cosa stai facendo. Però se prima cosa devono pagare il biglietto, seconda cosa non devono aggredire, questo. Non devono aggredire questo sicuramente. L'autista, gli autisti e il personale di controllo di questi autobus. Terzo, ripeto, se tu hai in un momento di difficoltà come questo, 30 persone che ti salgono tutte insieme su in una fermata, spintonando, lasciando a terra gli studenti e i pendolari. Problema, questo problema va risolto. Che poi, però che mi viene da dire, no, perché così continuiamo, ti continuo oggi e ti provoco così. Se salgono 30 pendolari italiani, non ne può salire, non può salire più neanche un immigrato. Infatti il problema ci sarà, c'è già, certo che c'è il problema del trasporto pubblico. Però se salgono 30 pendolari italiani magari con regolare abbonamento, per ragionamento diverso rispetto a 30 vabbè, che certo, pagano, chiaro, il biglietto va pagato, questo sì, le regole arrogante su questo non c'è dubbio, cioè il principio di salgo sull'autobus e pago regolarmente il biglietto, questo vale per me, per te, per Manera, per il migrante, il rifugiato, il pendolare, questo anche vale per chi lascia la mezza brioche. Anche per chi lascia la mezza brioche, questo non c'è roba, una roba, uno dei momenti più trash della storia della radio italiana. Tu non la pubblicità della mezza brioche, allora, lasciata al devo dire sto con Manera, il 30% dei messaggi che sono arrivati oggi in onda sono sulla mezza brioche, poi c'è il resto delle cose secondarie di cui abbiamo parlato in questa ora e mezza. Come si chiamava il film di Leonardo Ligabue, quello Radio Freccia, no? Radio Freccia, dove c'era quella bellissima brioche che era lì la era Passport di Stefano era Benny. Passport di Benny, esatto, non di Ligabue. La come si chiamava la brioche? La Luisona. Io lascerei metà Luisona a Leonardo Manera, che alla fine arriva credo a Mendola a mangiarla, no? E si abboffa della Luisona. Vabbè, Belotti, dai, invece, te la sei quasi cavata, ma mi viene solo una cosa da dire, però non è che dire gli immigrati arrivano, spintonano, sia un po' generalizzare. Vabbè, ci sarà qualcuno di loro che magari se vuoi, Leonardo, ti mando il filmato. Ti mando ma io sono convinto che ci sia qualcuno. Ma spintonano anche gli italiani, difendendo a priori, no. Però giustamente dice se parti così l'immigrato spinge, sembra un po'. Sto dicendo un'altra cosa, che sicuramente c'è qualcuno di loro che non si comporta bene, ma dire gli immigrati spintonano magari è un po' generalizzare, bisognerebbe magari, come sempre, come per gli italiani, bisognerebbe magari identificare queste persone, quelli che escono per spacciare, quelli che escono per commettere reati, e non magari dire gli immigrati in generale fanno questa cosa. Questa è la mia impressione, insomma. È svenuto 30-40 che si ritrovano tutte le mattine a quella fermata del pullman, non tutti gli immigrati, ma se il problema è evidenziato, denunciato da anni dai residenti di questo paese che hanno raccolto 700 firme su un paesino di 2500 perché la Botte Setrini è una frazione, allora dice Belotti, dice il problema c'è, va bene, poi qualcuno la metta sul piano per razionare, va bene, facciano quello che vogliono, l'invito ad andare a prendere il pullman invece di stare seduti in salotto sul divano, andare a prendere il pullman come te, maniera radical chic in vestaglia. Concludo, non ti abbiamo sentito molto esultare quest'agosto, o meglio ti abbiamo sentito esultare fino al minuto credo 89 di una certa partita, 89.50 di una certa partita. E poi io avrei voluto essere un po' a casa tua. Ma no, ma non per cattiveria, per vedere che cosa è successo dopo il pareggio e il dopo l'1-2 dei parigini fricchettoni radical chic. Sì. Proprietari arabi. Il primo pensiero che mi è venuto in... Sì, esatto, squadra araba musulmana, integralista. Ecco, sì, ma smettila. Ecco, primo pensiero che mi è venuto in mente al 93esimo, io adesso chiamo quel portaspiga di Milan e chiamo anche Manera e li mando a fare. Guarda che io ti favo tantissimo Atalanta e tu lo sai. Ma quando mi ha mandato il messaggio solo con voi, io ho detto no grazie perché portate spiga. Ciao Belotti, ciao Belotti. Ciao. No, adesso anche questa leggenda, portate sfiga, non diciamola, è così che poi dopo la gente ci crede. Dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Hi, my name is Stereo Mike. Allora, oggi mi ha colpito molto questa dichiarazione del ministro all'economia Gualtieri, la trovate su tutti i giornali. Ha detto: abbasseremo le tasse a chi investe un po' nel green, ecco, abbasseremo le tasse. Io, per carità, ha detto così, speriamo che sia vero. Certo, quando ho letto la parola tasse ho detto dobbiamo subito... Le tasse non si abbassano mai, caro Gualtieri. Ragionier Crosta, buongiorno, Agenzia delle Ragionier Entrate. Crosta, dirigente, dirigente, lo dica bene, dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Buongiorno. Noi dell'Agenzia delle Entrate, nonostante il coronavirus, noi dell'Agenzia delle Entrate, di cui io sono, lo ripeto, dirigente, sommo dirigente, noi non vediamo l'ora di applicare tutte le nuove regole per controllare la vostra dichiarazione dei redditi a partire dalla operazione autunno in mascherina. Cos'è? Allora andremo strada per strada a controllare quali mascherine utilizzate e in base al tipo di mascherina decideremo qual è il vostro reddito, in base a quello dovrete pagare le tasse. Per esempio, indossate la classica mascherina bianca da una parte, azzurrina dall'altra, con gli elastici che si rompono di continuo? Bene, allora siete il classico contribuente tirchio che ha accumulato grandi somme di denaro in casa, con le quali ha acquistato dipinti, sculture, opere d'arte di valore inestimabile, tutto perché volete risparmiare sulle mascherine a 50 centesimi d'uno, permettendovi di guadagnare, di conservare, di risparmiare cifre inestimabili. Reddito presunto 1 milione di euro. Un milione? Possedete la mascherina stampata con l'immagine di naso e denti per rendervi simpatici? Ah, simpatici, che bella simpatia, eh? Mi piace andare in giro con quelle belle mascherine stampate con naso e denti, eh? Simpatiche, facciamoci anche due risate. Che simpatico questo contribuente che va in giro con la mascherina stampata con naso e bocca. Anche coi baffi. Ma quella mascherina così simpatica costa di più della solita mascherina che comprate in farmacia a 0,50 euro. Quindi, se possedite quella, vuol dire che avete soldi da buttare in mascherine simpatiche. E quindi reddito presunto 2 milioni di euro. E su quei 2 milioni tasse da pagare. Oh. Tanti tassi. Possedete infine una bella mascherina, se ne vedono in giro di quelle ricamate a mano, che invece degli elastici e dei bei nastrini in stoffa, o meglio ancora in oro zecchino, significa che siete dei veri e propri nababbi. Reddito presunto annuo 5 milioni di euro. E si può lì tasse come se piovesse. Ma? Cosa si avvicina anche? Il momento in cui i figli vanno a scuola, certo. E avrete comprato loro tutto il materiale, ma in cartoleria, vi siete fatti prendere la mano e allora avete comprato qualcosa anche per voi, per esempio una gomma, la gomma che attira sempre, è bella da toccare, la gomma da cancellare, molti ce l'hanno, forse anche lei. Dunque possedete anche una matita, se possedete la gomma, ma possedere una matita è indice di insicurezza, perché altrimenti scrivereste con l'abiro. Quindi in cartoleria siete sempre indecisi e prendete tutto. Mi dia un temperino, prendo le mine di ricambio, le graffette, i post-it a forma di cuore che sono così simpatici come le mascherine stampate con la bocca e i pennarelli gialli, rossi, verdi. Sembra che passiate la giornata a disegnare semafori. Comprate così tanta roba che quando il cartolaio vi vede entrare pensa che stasera i bambini mangiano la cotoletta. Siete dei feticisti della cancelleria, ma non scrivete una parola a mano dalle medie. Però vi piace tenerla lì e accarezzarla, la vostra matita, tutta la vostra cancelleria, insieme a decine di quaderni dalle pagine immacolate che non userete mai. L'Amazzonia piange, ma l'Agenzia delle Entrate ride e ringrazia. Reddito presunto 90 milioni di euro. Con l'autunno e forse con un nuovo lockdown arriva anche il momento dei lavoretti a casa e voi forse possedete un chiodo, un chiodo. Più di uno. Sì. Bravi, in casa serve sempre un chiodo per i piccoli lavoretti di bricolage. Oppure usate il chiodo per appendere quel delizioso quadretto che avete comprato al mercatino in Provenza per 6 euro, ma poi avete scoperto che è un originale di Gauguin. E allora vi siete fatti costruire un caveau super segreto dove custodite gelosamente centinaia di quadri di Gauguin, anche quelli che non ha mai dipinto. E quindi siete anche un falsario. E qui entriamo anche nel penale. Bene, entriamo nel penale. Oh, il penale, ma nel caveau dove possedete i quadri c'è un po' di umidità, perché per non darne l'occhio avete fatto fare il caveau dove c'era la cantina. Infatti tra un quadro e l'altro avete appesi salami che devono ancora stagionare e l'umidità sbiadisce i colori dei quadri di Gauguin. Quindi una volta al mese chiamate Gauguin per i ritocchini, perché altrimenti la mano diversa si vede. Ma noi comunque arriveremo, perché in questo caso avete un reddito presunto di 90 miliardi di euro, tasse da versare, 700 milioni di euro l'anno più un salame, quello che conservate nella cantina che avete trasformato in caveau. Così quando brinderemo al vostro crack finanziario avremo qualcosa da mettere sotto i denti. La vedo molto in forma, ragionier Crosta, dirigente delle entrate. Arriva l'autunno. Dirigente, ripeta bene, dirigente, certo. signor dirigente. La ringraziamo molto e con lei concludiamo la trasmissione di oggi dando l'appuntamento a domattina. Nessuno, nessuno, nessuno.